Famine la lista tua, ma registraci qua ciò che ti dici. Un po' più grande in cava, poi qua ciò che petta. Faccio un cipollate, va bene. Cipollate coppetta, va bene. Ora stiamo segnando frate da dopo. Oh, non mi facete volare a testa che subi senza soldi. Qui tutti carusi di tutti i quattari. Più così su se si ammetta misteri. A me fanno un cagamivo liberi. Amici che superi i peri. Si c'è mani come mi sento a casa. Così la nuna che manco da nasa. Modestamente sono l'unica tagna. E sono picchissu ma sento sudata. Pisciata pisciata faremo la squaccia. Non siamo camati, siamo qua signori. Caruso pisciata mi fanno le immune. Vedi che moscio da spacchi canzoni. A mia famiglia si chiama Shagab. Stiamo rinendo ma stiamo a volarlo. Faccio scoppine e stanno sparugliando. Pare di spacchio mi state con danno. 200.000 bombate riversa. Come dialetto l'occhio tu nell'occhio. Se fa famiglia mi fanno una festa. Se fanno l'occhio ci fanno i vinaggi. Cavati con sta galoppa anda via. Perché se non guri finisce a furia. Quando mi vedi che mangio cavato. Vieni cavato che mangio cavato. Se c'ho con luci quando te mussi. Coso da fette chi spacchio da lì. Da tutti i pari l'avevo un cuscino. Che spatti giù coppa di casa lì. Si pezzi mega su parere mia. Se lo rispetto per cui sparo lì. E non ti smano perché appa malotto. Perché sapevo che a me da spazia. Sono un caruso di mentalità. Serio tu e mi sbatto con te. Picchi per l'amici mi faccia galera. Sono sempre si mette non si come mia. Si testi mi calano con mia. Faremo sei picchi a questi haters. Picchi capaci che si da muccioli. San filaro di testa scuota. E sangue catanese. Per tutti i conti. Carusini tutti i quattei. Per tutti i carusi di tutti i quattei. Che così su se si ammetta misteri. A me famiglia che mi vuole liberi. Di tutti gli amici che superi i peri. Se c'è mani come mi sento a casa. Così la nuna che manco da nasa. Modestamente sono l'unica tagna. E sono picchissu ma sento sudata. Che tutti gli amici di tutti i quattei. Se sa mettermi sei.